Kellogg, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Se un vostro collega d'ufficio, un amico di famiglia, un amante occasionale, un vigile urbano, un qualsiasi individuo, un giorno interloquendo con voi in tono animato, vi dice: tu sei un lobbista, cosa fate? Vi offendete? Beh, probabilmente sì, molti si offendono. Per essere chiamati lobbista, far parte di una lobby, subito fa salire una sorta di fumo misterioso, di appartenenza o sospetto, un'associazione segreta, un gruppo di potere, qualcuno che muove nascostamente le leve che fluidificano i meccanismi produttivi, istituzionali e legislativi di questo paese. Di lobby si è parlato anche molto ultimamente. A me è divertito un pezzo di Fabrizio Roncone uscito sul Corriere della Sera di qualche giorno fa, il 29 febbraio, nei giorni in cui si discuteva dell'approvazione del decreto liberalizzazioni, e pare che i palazzi istituzionali fossero presi d'assalto da strani e sinistri signori. Rigorosamente anonimo, scrive il titolo del pezzo di Roncone, suadente, scaltro, elegante, in corridoio arrivò il lobbista e racconta questo suo passaggio per i palazzi istituzionali, in cui incontra questi signori armati di BlackBerry, iPhone, che aggirano i commessi, entrano con dei pass con scritto sopra ospite per raggiungere il parlamentare e portare al parlamentare quelle che sono le istanze, i desiderata, le proposte di alcune categorie che loro rappresentano. Ci descrivete come demoni, diamo solo qualche consiglio, dice uno di questi signori, elegantissimo, colto nella buvette, che non spiega chi sia, non spiega per chi lavora, ma stava lì, dava l'assalto ai parlamentari per cercare in qualche maniera non di condizionare, ma di dare un suo contributo a chiarire meglio quelli che erano probabilmente gli interessi di alcune categorie di cui si discuteva in quei giorni. Questo è un po' l'idea che tutti ci facciamo. Il lobbista è qualcuno che innanzitutto non dice di essere un lobbista. Perché? Perché il lobbista spesso viene confuso con altri tipi di professioni, non sempre tutte limpide, tutte cristalline. Invece la lobby, perlomeno in altri paesi, è considerata una normale e lecita attività che fa parte delle professioni che può svolgere un essere umano per dare a se stesso una dignità professionale, ma anche per svolgere un lavoro utile alla società. Noi questa mattina vorremmo cercare di capire chi veramente sono i lobbisti. Io vi lascio un attimo di suspense, posso dire che sono circondato da lobbisti, li ho vicino a me, li ho accanto a me, sono in contatto con loro, realmente sono, corrispondono alla descrizione di Roncone, sono vestiti eleganti, hanno un aspetto molto influente e probabilmente sono qualcosa che assomiglia all'idea che si è fatti voi di lobbista, ma in realtà sono tutt'altra cosa. In questo mondo globalizzato le leve del potere sono oggi più che mai nelle mani dei monopoli, ossia di quei centri di potere gestiti dalle multinazionali e dalle loro lobby. Diciamo subito che non sempre le lobby operano lecitamente, anzi sono centri di potere occulto che perseguono i propri interessi utilizzando ogni mezzo lecito o illecito, grazie anche alla protezione del potere politico. Questo perché molti governanti sono diventati uno strumento subordinato alle lobby e si sono trasformati in esecutori delle loro direttive. 800240024, che idea voi vi siete fatti dei lobbisti, dei lobby? Questa clip l'abbiamo presa da YouTube finanzafacile.tv, è un signore che ci parla dei lobby come centri di potere occulto. È qualcosa che, diciamo, colpisce, attraversa l'immaginario del mondo moderno, da quando si parlava delle grandi sinarchie, dei gruppi occulti. E, diciamo, il pensare che ci siano, e probabilmente in parte sa corrisponderà anche a realtà, ma comunque dei poteri forti così organizzati, con possibilità di intervenire addirittura al di sopra delle volontà dei governi nazionali, è un'idea che comunque galleggia nell'aria. Ma tornando al termine lobbista, cosa ha a che fare il lobbista con questa idea, con questo grosso ed enorme pregiudizio, con questa convinzione di cui in questo momento, in questa occasione, non mi interessa andare a cogliere i punti di verità e i punti di fantaimmaginazione. Federico Serra, buongiorno. Buongiorno. Federico Serra, lei è un lobbista. Assolutamente sì. Non si deve vergognare di dirlo, non si deve nascondere, non è un reato essere lobbisti. Assolutamente. Federico Serra è vicepresidente della Public Affairs Association, autore assieme a Massimo Cherubini di Siamo due lobbisti, Lobbies e Government Affairs, all'epoca dei faccendieri, edizioni About Pharma. Lei ha scritto insieme a un altro mio collega, poi che è un giornalista, lei si occupa di management, di affari di altro tipo, avete fatto un libro proprio sulla l'idea del lobbista, siete due lobbisti, avete fatto questo coming out di fronte a tutti, dicendo però esattamente nel sottotitolo che l'epoca dei faccendieri in qualche maniera ha offuscato quella che è la figura del lobbista. Qual è la differenza fra il faccendiere e il lobbista? Beh, probabilmente il faccendiere è una persona che in maniera occulta, come diceva il blog che avete mandato, si cerca di interferire in quelli che sono degli affari dello Stato, degli affari governativi, mentre il lobbista è un portatore di interessi, quindi una persona che rappresenta degli interessi particolari di categorie oppure... Ha un mandato, quindi il lobbista ha un mandato innanzitutto. Ha un mandato e attraverso il mandato cerca di portare al confronto delle idee oppure delle esigenze di un certo tipo, migliorando quello che è il processo democratico, perché il processo democratico si alimenta anche attraverso il confronto fra le parti e quindi il lobbista cerca di animare in questo senso qua. Il faccendiere invece è una persona un pochino più occulta che attraverso anche insomma un savoir-faire oppure un certo tipo di atteggiamento benevolo cerca di influenzare, quello non è professionale. Nella prefazione del vostro libro c'è una foto di John Kennedy che dice: lobbisti sono quelle persone che per farmi comprendere un problema impiegano 10 minuti e mi lasciano sulla scrivania 5 fogli di carta. Per lo stesso problema i miei collaboratori impiegano 3 giorni e decine di pagine. Quindi se dovessimo subito dare una qualifica professionale, una qualità di lavoro al lobbista, una persona che riesce a porre delle sintesi rispetto a problemi che appaiono complessi. Assolutamente, deve essere assolutamente sintetico, perché poi l'interlocutore che hai davanti deve capire immediatamente qual è il tuo punto di vista e devi essere documentato su questo, assolutamente sì. Io vedo già un SMS che mi scrivono: è stato imposto il silenzio sulla lobby ebraica. Stiamo parlando di un altro tipo di cosa. Noi vorremmo questa mattina fare una trasmissione di giustizia lessicale. Vorremmo dare al termine lobby quello che esattamente è. Poi non voglio negare nulla e non voglio entrare in nessun altro tipo di ambito. Esisteranno gruppi di potere, esisteranno influenze etniche, commerciali, finanziarie, di genere, di costume, quanto volete, ma non è esattamente quello che corrisponde al termine lobbista. Forse il problema nel nostro paese nasce dal fatto che non esiste un riconoscimento professionale del lobbista. Il lobbista si muove in un ambito di incertezza, proprio perché nessuno ha mai pensato di istituire un registro dei lobbisti. L'ordine dei lobbisti è qualcosa che non è compatibile con la professione, però il registro dei lobbisti sì. Assolutamente sapere sì. Almeno chi sono in Italia le persone che fanno lobbying. Io credo che sarebbe indispensabile in questo momento, come esiste in Europa, come esiste in molti paesi, negli Stati Uniti, dove la rappresentanza passa anche dalla visibilità e dal mostrare chi sei, chi rappresenti e come lo rappresenti. Questo qui, questa operazione di trasparenza, certamente per chi fa del lobbying una professione, certamente è un punto di partenza importante, non è neppure un punto di arrivo. Sembra che in Italia la proposta più recente l'ha fatta il presidente del Senato Schifani, che ha detto che forse è il caso, o si sta pensando, o ha buttato l'idea di creare un registro dei lobbisti. Ma dal punto di vista proprio istituzionale, sono state proposte di legge, di regolamentazione nel corso degli anni, è sempre rimasto qualcosa in un ambito limaccioso e misterioso che ne accresce il senso sinistro, la figura del lobbista? Ma quando sull'onda emotiva dell'aspetto mediatico si ragiona di regolamenti, leggi, io per natura sono un pochino diffidente, perché secondo me bisogna affrontare il problema globalmente, facendo anche benchmarking con quelli che sono altri sistemi e cercando di capire qual è il sistema migliore che si adatta. Negli anni, diciamo in questa legislatura, sono stati presentati 7 disegni di legge di tutte le forze politiche, senza mai neppure essere stati discussi in commissione, quindi assegnati in questo. Probabilmente i politici sono i primi che hanno volontà, interesse, piacere di sapere che la persona che gira per i palazzi istituzionali con un fogliettino con scritto ospite almeno sappiano chi rappresenta, chi viene ufficialmente. Ma guardi, per entrare in un palazzo, qualunque palazzo del, diciamo tra virgolette, del potere, non basta dire voglio entrare, c'è qualcuno che ti dice puoi entrare. Quindi quando uno c'ha la qualifica di ospite, vuol dire che un senatore, un deputato, un ministro ti ha accreditato, quindi vuol dire che qualcuno già ti conosce. Questo è già il primo passo poi per definire la capacità di un lobbista e saper fare il suo lavoro. Allora, qualcuno che ti accredita a palazzo, già, certo, qualcosa. Certo. Sentiamo qualche ascoltatore. Aldo, buongiorno. Ah, buongiorno, prima ringrazio, poi vorrei fare una domanda, forse esco dal tema. Esiste o c'è qualche differenza tra i lobbisti e i rappresentanti della nostra casta? Ecco, io li vedo simili. Ma casta in che senso? In senso induista? Quelle che definiamo sui giornali le nostre caste laggiù a Roma. Ecco. E me ne dica qualcuno, esempio, faccia un esempio, così almeno. Quelli giù al nostro congresso, non so, la casta degli avvocati, casta dei medici. Gli ordini professionali, le corporazioni, chiamiamole così, esatto, anche se il termine non è esatto. Volevo se c'era qualche differenza oppure soltanto dal punto di vista semantico della parola, ecco, non chiarimento. Sì, sì, no, ma è chiara la sua domanda. Le faccio rispondere, sentiamo anche Luca, così diamo poi domande ai nostri ospiti. Fate pure domande tranquillamente, liberamente, 800 24 0024, toglietevi tutti i dubbi, tutte le possibili perplessità. Ho detto, ho dei lobbisti oggi, lobbisti dichiarati, lobbisti che non sfuggono, che non si nascondono, che non si mettono maschere e cappucci, quindi risponderanno a quelle che sono le vostre richieste. Luca. Salve, io mi ero fatto un'idea un po' come nel video YouTube del lobbista e dei faccendieri, come una sorta di Grande Fratello del 1984, che come Corrado Guzzanti nelle sue gag, sempre su YouTube. Però adesso, ragionando in quello anche che dicevate, questa figura forse si addice più al faccendiere, che tra l'altro è una parola uscita in questi ultimi anni, non sono grandissimo in età, però no, ma diciamo è un termine più che altro giornalistico, ma si usa nel nostro paese da qualche decennio. Un po' mi incute paura questa figura, che so, il faccendiere che è dietro a tutto. Ma come se lo immagina lei un faccendiere? Dovesse descriverlo? Non lo so. Lo visualizzi e poi descrivi un faccendiere. Un faccendiere è un magnate, che ne so, dell'industria, che riesce a controllare con i suoi poteri occulti, diciamo, la politica. Ma come si... No, perché noi usiamo sempre dei termini... Abbiamo detto Rupert Murdoch. Vabbè, non è un faccendiere. Beh, quello non è un faccendiere, lui è altro. Potrebbe avere dei faccendieri, un personaggio potente, un grosso operatore nel campo dell'informazione, ma il faccendiere in sé non è una persona... lo si scopre come tale quando qualcuno lo arresta, perché se no il faccendiere è una persona che normalmente si vede nei salotti, frequenta persone e tutto. Quando diventa un reato l'essere faccendiere, esce fuori il termine faccendiere. Vediamo, intanto presento l'altro ospite, Massimo Cherubini, buongiorno. Buongiorno a lei. Massimo Cherubini è l'altro autore del libro Siamo due lobbisti. Vediamo se lei, Cherubini, può intanto rispondere alle domande dei nostri ascoltatori. Come vede, abbiamo colto nel segno la precisazione lessicale, è quella più importante. Il primo ascoltatore aveva fatto una domanda, dice quanto alcune categorie che vediamo molto presenti, se ne è parlato molto sulle liberalizzazioni, i tassisti, gli avvocati, i farmacisti, corrispondono al termine lobbista, e l'altro ascoltatore, che poi ancora è terrorizzato all'idea del faccendiere, però fa un po' di confusione. Anche sul faccendiere forse vale il caso di definire esattamente chi tale si consideri. Allora, innanzitutto buongiorno a tutti, buongiorno a lei. Sono d'accordo, forse è opportuno dare una definizione di faccendiere, faccendiere e chi si dà da fare in traffici spesso poco chiari, procacciare affari, mediare senza scrupoli. Il lobbista non fa questo. Cioè un mediatore di affari faccendiere. È un mediatore d'affare. Il lobbista è un portatore di interessi legittimi presso le istituzioni affinché la classe politica nel legiferare tenga conto delle esigenze della categoria che questo lobbista porta avanti. Quindi è tutt'altro mestiere, è tutt'altra attività e anche, credo, anche diverso approccio, diverso tipo di comportamento. Potrei dire che legato al discorso del faccendiere probabilmente è legato anche la voce alla corruzione, i lobbisti sono invece negli altri paesi europei e in America soprattutto sono fortemente regolamentati e nel momento in cui attuano comportamenti non conformi vengono addirittura tacciati di dall'albo e quindi vengono visti come dei soggetti. Ecco, quale potrebbe essere un comportamento non conforme che fa scivolare, diciamo, la figura del lobbista nella zona grigia del faccendiere? Per un esempio. Come le dicevo, il lobbista, lobby no, perché nelle lobby, nei corridoi antistanti i palazzi del potere, nei corridoi i lobbisti incontrano le istituzioni, dialogano con i parlamentari, con i senatori, portando avanti le istanze. In tutto in modo molto legittimo, no? Lei aveva citato prima la definizione di Kennedy, no? C'è un problema, i lobbisti portano una possibile soluzione. Altro discorso è un comportamento non conforme che è quello della corruzione, che non ha nulla a che vedere con l'attività di lobby e che sono proprio i lobbisti a voler per primi tacciare come comportamenti illegali, illegittimi e che vanno a creare una come dire, un'accezione terminologica di questa professione che non è quella che realmente è. Ecco, scrive un ascoltatore con SMS e rivolgo la domanda a Federico Serra. Scusi, il lobbista è un mestiere? A cosa serve? Chi li paga? Quanto guadagnano? Grazie, Enrico. Molto, molto semplice e diretto l'ascoltatore, però logicamente un ascoltatore si chiede se è una professione e come è inquadrata questa professione, o se è un ufficio di consulenza. È un ufficio di consulenza, è un mestiere che sono dei professionisti che vengono da esperienze professionali. Massimo Cherubini viene dalla comunicazione, io vengo dall'impresa e attraverso quelle che sono alcune skill professionali cercano di mettere in piedi un percorso che sia di tipo legislativo, sia di tipo legale e documentabile soprattutto, perché quando non è documentabile allora è quella parte occulta che dicevamo. Vengono pagati dal committente, dal cliente che vuole rappresentare un interesse, come viene pagato l'avvocato da un cliente che devi rappresentare. L'avvocato pure segue delle transazioni, prende dei contatti, quindi rappresenta degli interessi. E non si può dire che io faccio l'avvocato, io faccio il penalista, faccio il civilista, faccio il societario, e anche il lobbista segue dei campi specifici e laddove non ha l'esperienza necessaria si avvale di consulenze di esperti. Ecco, io vorrei, inciso, che vedo anche un altro SMS. Cercano solo di fare i loro discutibilissimi sporchi interessi. Ora, il lobbista, mi corregga se ho capito male, non è che fa i suoi interessi, fa un mestiere, fa gli interessi del suo committente, ma se lo fa alla luce del sole non c'è nulla di sporco in ciò che si fa alla luce del sole. Assolutamente, il lobbista fa un interesse che è assolutamente legittimo. E quando dicevo documentabile significa che sia un interesse che abbia una trasparenza di processo e non solamente di esito. Vorrei che fosse chiaro chi mi ascolta in questo momento che non ho nessun interesse di lobby a parlare dei lobbisti o non sto propagandando la figura del lobbista, sto semplicemente facendo un'operazione di chiarezza. Esiste una professione, un'attività che nel resto del mondo è legittimamente riconosciuta, è quella di fare attività di lobbying. Si prende un committente ti cerca perché ti riconosce dei meriti professionali, sei bravo nel fare delle sintesi, rappresentare interessi, hai anche dei buoni contatti, hai dei buoni rapporti, hai la possibilità di metterti in contatto con persone che tu committente non sei capace, io ti pago e ti do il mandato di portare i miei interessi alle persone che in realtà poi possono decidere, e questa è l'attività del lobbismo. E non e non nego e non voglio escludere, non voglio mettere sotto acere il fatto che esistano anche una serie di attività, di persone, di organizzazioni, di gruppi di potere che questo stesso lavoro lo fanno non sul piano della trasparenza ma sul piano del basso mercimonio, della corruzione, del faccio un piacere a te, tu fai un piacere a me. 800240024, ci fermiamo per un istante per l'informazione della borsa, poi continuiamo a parlare dei lobbisti. Potete riascoltare Melog in podcast su www.radio24.it. Melog, la realtà condivisa. Mi sto molto divertendo questa mattina perché non immaginavo che, cercando di fare un po' di chiarezza sulla figura, sul termine, su chi realmente esercita la professione di lobbista, cosa faccia dalla mattina alla sera, ho scatenato tutte le fantasie più riposte dei miei ascoltatori. Mi chiedono: dillo Nicoletti, dillo, i lobbisti sono massoni e emanazioni della massoneria. Ma saranno anche quello, ma ci sono lobbisti che fanno gli interessi dei cattolici, dei cristiani, delle ONG, figuriamoci, fanno tutto. Il lobbista è semplicemente una persona che ha una grande capacità di mettere in relazione i problemi con le persone che possono risolvere questi problemi, e si fa portatore degli interessi di alcuni suoi clienti che lo chiamano e dicono: mi fai questa cortesia, ti fai portatore di questa mia necessità, e il lobbista si muove, il lobbista per questo viene pagato. Mi sembra una cosa molto lineare. Sentiamo gli ascoltatori. Paolo, buongiorno. Sì, buongiorno. Paolo, sì. Una domanda semplice che comunque alla quale avete già dato una risposta. La mia domanda semplice era: come si fa a diventare lobbisti? Ma lei sarebbe interessato a diventare lobbista? Ma perché no? C'è questa nascita, questa crescita di figure professionali che vanno al di là dell'essere medico, avvocato, ingegnere. Ma guardi, facciamo un esperimento, Paolo. Io con me, Federico Serra e Massimo Cherubini, sono gli autori di un libro proprio su il lobbismo. Siamo due lobbisti e spiegano esattamente come si diventa lobbisti, qual è il lavoro del lobbista, come procede la professione. Le faremo un piccolo interrogatorio per vedere se lei in realtà ha le caratteristiche per fare il lobbista. È a disposizione dei miei ospiti. Federico Serra, l'ascoltatore Paolo dice: vorrei fare il lobbista. Quali sono le caratteristiche che dovrebbe avere? Le faccia qualche domanda, è a sua disposizione. Ma intanto buongiorno Paolo, la prima cosa è: qual è il suo background professionale, cioè quali sono le sue esperienze professionali, da dove proviene? Io sono un ingegnere, quindi ho avuto delle esperienze nell'ambito industriale. Quindi ha un'esperienza sicuramente molto specifica nel campo dell'ingegneria e del mondo industriale. E quanti anni ha? 50 ormai. Ha un contatto con le istituzioni per motivi professionali? No, assolutamente no. Benissimo. Però anche locale potrebbe no, ma questo è un vantaggio? Beh, devo dire, non è un qualche cosa che possa bloccare. Perché parte vergine. Sì, diciamo. Assolutamente. Io credo che nel momento in cui un professionista voglia avvicinarsi al mondo del lobbying debba capire quale esperienza vuole rappresentare, quale know-how ha per rappresentare quell'esperienza ed eventualmente cercare attorno a sé quei professionisti, quegli esperti che possono dare valore aggiunto alla propria proposta. Quindi farsi uno staff. Certo, mettiamo l'ingegnere, sicuramente è una persona che per sua definizione ha davanti a sé un processo. Allora, io normalmente si parla del lobbista solo per l'esito, che poi non è sempre positivo, ma è sempre una mediazione, sembra anche là quando è positivo, ma mai si parla del processo, cioè del cercare di mettere in piedi quello che è un planning di attività che portino poi a far risaltare una opzione. E quali competenze servirebbero nello staff di Paolo Ingegnere se vuole aprire, diciamo, un ufficio di lobbying? Beh, giuridiche forse? Sicuramente giuridiche e legislative, questo qua è in dubbio. Poi qualche cosa certamente anche nel campo della comunicazione, perché parte della comunicazione non solo mediatica ma istituzionale, sociale, oppure specifica in questo senso qua va composta. Quindi lavorare con uno staff che completi queste caratteristiche e poi cercare di capire qual è il proprio target di riferimento. Io faccio un esempio, faccio un esempio, fa l'ingegnere, quindi immagino nel campo è un ingegnere edile, Paolo? No, industriale. Industriale, benissimo. Nel suo campo lei sa esattamente quali potrebbero essere i problemi di certe categorie che lei ha avuto come clienti del suo studio professionale? Beh, direi di sì. Ebbene, faccia uno ad esempio, su quale potrebbe intervenire. Ah beh, guardi, io posso dire le problematiche dei clienti quali vedo, potrebbe anche comunque non interessare a un lobbista, comunque sono i reclami che i clienti hanno nei vari prodotti, questa è una cosa, un dato sensibile. Questa è materia, secondo Serra, di un'azione di lobbying? Sinceramente mi sembra di no, è più una gestione di crisis management nel momento in cui un'industria ha credo il problema della lobbying è un problema di sviluppo o di adattamento dello sviluppo a determinati tipi di esigenze. Faccio un esempio: se nel mondo industriale della realtà dove vive Paolo vi è la possibilità di far crescere un comparto industriale specifico, quelle che chiamano comunemente le valley, cioè che poi possono essere di tipo tecnologico o sociale, allora in questo senso qua nel campo industriale una persona che dice io sono ingegnere, voglio rappresentare questo tipo di sviluppo industriale, certamente potrebbe qui essere abbiamo dato un esempio, ringraziamo l'ascoltatore Paolo, di come bisogna organizzarsi per far capire che c'è una complessità, non basta semplicemente conoscere gli amici degli amici e dire ci penso io, vado a Roma e ci penso io, non è esattamente così. Sentiamo Giuseppe, ascoltatore Giuseppe, buongiorno. Pronto, buongiorno. Lei è un lobbista? Io sono un lobbista, nonostante la giovane età di società di lobbying ne dirigo due. Uno è l'ufficio italiano della maggiore società indipendente di lobbying a livello europeo e un'altra è una piccola società italiana. E apprezzo molto la trasmissione e conoscendo il timbro che le dà la trasmissione volevo aggiungere un elemento di sofisticazione. Cioè io do un timbro sofisticato alla trasmissione. Abbastanza, nel senso di, questo è un pregio. Di adulterato o nel senso di raffinato? Raffinato. No, di una specie, io questa mattina siamo per la chiarezza dei termini. Assolutamente. No, io ho ascoltato gli sms, preoccupati della gente che ci vede come fantasmi in Parlamento e volevo chiedere cosa sarebbe un Parlamento senza lobbisti. Sarebbe una casta autoreferenziale e presupporrebbe l'elezione di sole persone onniscienti. Ci sarebbero soltanto faccendieri portaborse, diciamo la verità. Sì, che senza qualcuno che gli va a raccontare quali siano le implicazioni specifiche delle loro scelte, farebbero scelte meno oculate, evidentemente, oppure farebbero scelte dettate solo dalla loro onniscienza, dall'onniscienza dei parlamentari, che però sappiamo non esiste, e quindi un mondo dove la dialettica abbia un peso reclama la presenza di lobbisti. C'è una frase molto carina di Blair, che non so se avete già citato perché è un classico, che diceva Tony Blair, quindi il primo ministro inglese, diceva: se faccio qualcosa che danneggia i vostri interessi perché non lo sapevo, la colpa è vostra e non è mia. Loro sono liberi di fare, perché la democrazia gli assegna questo ruolo, sono liberi di scegliere quello che vogliono i deputati e i governi, però devono saperlo e il mio mestiere è andargli a spiegare le implicazioni di quello che fanno. Tanti politici l'hanno detto, non lo sapevo, forse se fossero consultati prima sarebbero stati informati. Grazie Giuseppe, molti mi stanno scrivendo e rivolgo la domanda a Massimo Cherubini, che è l'altro autore di questo libro, Siamo due lobbisti, di cui stiamo parlando questa mattina, la differenza fra un lobbista e un sindacalista, diciamo allora anche i sindacalisti sono lobbisti? Sì, allora i lobbisti hanno alcuni aspetti similari a quelli all'attività che svolgono i sindacalisti, però mentre il sindacalista è un portatore di interesse, quindi l'interesse dei lavoratori nei confronti del governo, il lobbista spesso e volentieri si trova ad operare anche su questioni non così generaliste. Vi faccio un esempio: l'idea di portare avanti le scatole di plastica piuttosto che le scatole d'alluminio piuttosto che le scatole in PVC è un aspetto molto, molto tecnico, che ha dei risvolti molto importanti e che in qualche modo è molto, molto tecnico, mentre il sindacato tendenzialmente va per macrosistemi. Cioè, comunque l'interesse di una categoria, sono, se ho capito. Sì. Comunque sono assimilabili su certi aspetti. Sentiamo Pierpaolo, che c'è una domanda singolare ma divertente. Pierpaolo è caduto. Pierpaolo domandava, Federico Serra, dove si trova, come si trovano i lobbisti? Di certo non sull'elenco del telefono, come posso contattarli? Beh, normalmente le società di lobbying, come diceva Giuseppe, che ne rappresenta due, sono società di servizi o di monitoraggio parlamentare o di rappresentanza di interessi. Ecco, ma c'è una dicitura, come si chiamano, consulenti? Consulenti d'impresa. Consulenti d'impresa, sono le società consulenti d'impresa che fanno attività di lobbying. Se mai passasse la proposta di fare un registro dei lobbisti, si dovrebbe fare una società di lobbying, potrebbe scrivere una dicitura nell'espressione sociale, noi siamo una società di lobbying. Ma io credo, io ritengo che la parola lobbying in italiano è intraducibile. Questo è il problema, non esiste una traduzione reale. Cioè, sì. Lei sa che lobbying significa atrio, dire che noi siamo gli attraioli del palazzo non renderebbe il portiere, ma il non portiere c'entra, siamo, allora è intraducibile e quindi finisce laddove poi viene sparata dal punto di vista mediatico di avere un'eccezione esclusivamente negativa. Nel mondo anglosassone invece no, perché ha un significato ben specifico, pur provenendo da una esperienza storica, insomma, del generale Grant. Ora non mi dilungo, io credo che si possa invece mettere società di rappresentanza di interessi presso il Parlamento, questo assolutamente sì, o di lobbying. Noi nel libro, nella prefazione, diciamo, se mia figlia dicesse alla maestra: mio padre fa il lobbista, 5 secondi dopo il preside sarebbe informato che c'è un... E sarebbe tenuto sotto sorveglianza, sì, in quanto figlio di lobbista. Melog, la realtà condivisa. È molto divertente. Oggi pensavo di fare una trasmissione noiosa, invece mi sto divertendo tantissimo. Perché dietro l'incertezza di un termine che in realtà in italiano è intraducibile, come diceva poco fa il nostro ospite, si celano degli universi sterminati. Uno mi chiede sull'SMS, la Camera di Commercio, una lobby, è Francesco. Poi, un'altra ascoltatrice, salve, sono di fede cristiana, spesso mi trovo a contatto, già saltato l'SMS, con associazioni cattoliche, Comunione Liberazione, Opus Dei, sarei molto tentata di farne parte. Mi dite, sono considerate lobby queste associazioni? Come se fosse peccato, come dire, che ne so, mi iscrivo ai figli di Satana, farò male, farò bene. Un Parlamento senza lobby sarebbe migliore, quello dice. Poi, che differenza ancora fra i responsabili marketing e lobbisti? Anche quelli del marketing si rivolgono alle istituzioni per cercare appoggi, o sbaglio? Beh no, il marketing non si rivolge. Ecco, Federico Serra, su questa ultima domanda, no, io non siete uomini di marketing. Venendo dal mondo dell'impresa, mi spiace per l'ascoltatore che ha... Ma il marketing è il posizionamento del prodotto, per certo. Definizione l'accrescimento del valore del brand. Faccio nella grande distribuzione e dire dove, come promuovo un prodotto e quali sono i canali. Il lobbista invece è quello che dice... Il bersaglio è il consumatore. È differente per il lobbista, invece è il processo legislativo che porta, faccio un esempio, a far sì che una categoria di prodotti possa essere sottoposta a un procedimento legislativo che possa incontrare i favori dell'impresa. È totalmente differente. C'è un momento di grande soddisfazione professionale per il lobbista, l'equivalente in una causa vinta difficilissima di un avvocato o un'operazione difficile andata bene per un medico chirurgo? Quando il tuo parere viene preso in considerazione, al di là che poi dell'esito finale, ma ti stanno ad ascoltare. Quando ti stanno ad ascoltare per l'autorevolezza di quello che dici e che tu documenti. Poi certamente c'è la soddisfazione del risultato, come in qualunque professione, però credo che la soddisfazione, almeno dal punto di vista mio, è quando l'autorevolezza di quello che fai viene riconosciuta come valore aggiunto della propria attività. Sentiamo Hermes, buongiorno. Buongiorno a voi. La mia domanda è questa. È possibile che le grandi lobby, le lobby in particolare, eleggono loro la persona da mandare in Parlamento? Ma ancora una volta c'è un errore di interpretazione, mi sembra aver capito, adesso Serra le risponderà. La lobby ha già bisogno di un Parlamento costituito a cui rivolgersi, Su chi dovrebbe fare leva per fare eleggere un parlamentare? Sentiamo Serra se ho interpretato male. Ma guardi, intanto vi è da dire che bisogna fare una differenza fra corporazione, censi e poi chi fa una professione, un mestiere ben specifico, quindi una che mette a disposizione la propria professionalità. Non escludo che determinate corporazioni hanno, anzi lo fanno. I tassisti hanno contribuito notevolmente all'elezione di un sindaco in una grande città, questo è possibile. Ma anche hanno, credo, un parlamentare, i tassisti. Però con il lobbista cosa c'entra? Ma con il lobbista non c'entra nulla, cioè nel senso che se i tassisti venissero da me e chiedessero qual è il processo per cercare, io metterei a disposizione quello come farebbe fa l'attività di lobbying come per i come fa l'avvocato quando va un cliente. Quindi assolutamente sono due cose da tenere in maniera distinta. E poi credo che il valore aggiunto, infatti poco fa domandavo all'ascoltatore che chiamava da non mi ricordo dove, che a Paolo, che era l'ingegnere, meglio non conoscerli i politici prima, cioè, perché sennò poi sei inevitabilmente il lobbista di quel politico e non quindi puoi rappresentare. Quindi è importante sia bipartisan, perché sennò fa parte della corte di un politico. Ognuno di noi ha un'opinione politica, però nel momento in cui esplica un'attività di tipo professionale l'appartenenza diventa un limite. Maria, buongiorno. Sì, buongiorno a lei, buona mattinata a tutti. Più sento parlare di lobby e lobbisti e meno capisco, però mi vengono delle domande. Perché meno capisce? Stiamo facendo chiarezza, almeno ci proviamo. Ma la domanda è, ma un lobbista è un tecnico di una materia, allora perché non chiamarlo tecnico? E se sì, i tecnici di varie professioni appartengono a un ordine. E quindi... Perché li stanno adesso facendo tutto per abolirli gli ordini professionali. Sì. Certo, però è una cosa che ha da venire, ma i lobbisti esistono. Allora, se i lobbisti sono dei professionisti e sono dei competenti, possiamo dire che il nostro governo è un governo di lobbisti? No, non c'entra nulla. Federico Serra, no, è capita, ma i lobbisti sono delle persone che svolgono una professione. Non si fa un ordine professionale perché è uno spettro molto largo di competenze. Si sta cercando, perlomeno c'è qualche proposta fatta al Presidente del Senato, di istituire un registro dei lobbisti. Delle persone possono essere ingegneri, avvocati, commercialisti, qualunque cosa, fanno attività di lobbying. Vediamo chi sono le società, quali sono le società che fanno lobbying. Serra, risponda a questa ascoltatrice. Ma gli ordini sono qualcosa di assolutamente differente, cioè sono una serie di professionisti che aderiscono a un determinato tipo di professione ben specifica. Diciamo, per noi è assolutamente improponibile un ordine, un registro, io credo inizialmente su base volontaria, perché non su base positiva dal punto di vista del governo. Può cercare invece di chiarire chi sei, cosa fai, come lo fai e chi rappresenti, in questo senso qua, che sono le domande che poi ti domande, le domande che il politico ha davanti: chi sto incontrando, chi rappresenta, qual è il suo background. Massimo Cherubini, proprio in conclusione, continuano ad arrivare domande con tutti i nostri sforzi, vedo che ancora non è ben chiaro per il pubblico, vediamo se riesce a farlo capire. Mi scrivono: gli ordini professionali, gli avvocati sono di fatto lobby. Spieghiamo una volta per tutte sinteticamente la differenza fra una corporazione, un gruppo professionale che ha grosse possibilità di incidere sulla realtà, e il lobbista. Allora, sono d'accordo con lei che sia necessario fare una precisazione. Ad esempio, l'ordine professionale è anche garante della deontologia professionale di coloro che ne fanno parte. Quindi di conseguenza le funzioni dell'ordine professionale, l'ordine dei giornalisti ad esempio, è garante sui comportamenti che i professionisti iscritti all'ordine devono tenere nella loro attività. Il lobbista invece è un soggetto che sostanzialmente ha degli aspetti tecnici, perché deve conoscere quella che è la macchina legislativa, come avviene il processo legislativo, gli iter, ma deve portare avanti, quindi deve avere degli aspetti più comunicazionali, trasferire al referente, quindi al legislatore, che questa problematica che in qualche modo c'è sul tavolo in discussione in questo momento può essere risolta in che modo? Con questo tipo di soluzione. Quindi per ora quella che è questa soluzione. Poi si limita a dare dei suggerimenti, non è che ha un'azione concreta. Assolutamente dei suggerimenti, perché il lobbista termina la sua attività facendo da suggeritore. Quindi l'aspetto deontologico, la responsabilità poi viene dalla persona che effettivamente opera. Assolutamente nei confronti del deputato che liberamente sceglie se recepire questo tipo di suggerimento oppure semplicemente disattenderlo e perché non lo condivide. Ecco, questa è la macro differenza tra le due categorie. Grazie, spero che Massimo Cherubini sia riuscito a chiarire in parte quello che noi volevamo